24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui, cari ascoltatori, scoccano le 7.30 in questo istante. Buongiorno, buon mercoledì 14 aprile 2010. Oggi di cosa parliamo nel nostro sondaggio alle 8.30 e che potete già votare su radio24.it? Parliamo di scuola. Lo facciamo perché torna in qualche modo la questione o del grembiule, se volete, di gelminiana memoria. Il ministro ha proposto il ritorno al grembiule, o della divisa. Sono sempre più le scuole, un paio adesso in provincia di Treviso, ma ce n'è una da Napoli che lo fa da 10 anni, che prevede la divisa per i propri studenti. Un modo, qualcuno dice, per abbattere un po' le diversità, una motivazione quasi egualitaria, no? In modo che tutti i figli siano trattati allo stesso modo, non ci sia competizione. E allora ci chiediamo questo: a scuola, in divisa, uguale per tutti. Che ne pensate? Siete d'accordo? Radio24.it, bianco o nero, ci trovate nell'home page e dovete votare lì. E ne parleremo alle 8.30 ed ora, come di consueto, andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali in edicola. In primo piano. Succede quando non c'è una notizia che sulle altre si impone che ognuno faccia le proprie scelte editoriali, per cui oggi i giornali propongono cose molto variegate. Allora, basta vedere i titoli di apertura. Il Sole 24 Ore: cambia il processo dei TAR, salta la creazione delle sezioni stralcio per smaltire l'arretrato. Di cosa si tratta? Di un provvedimento all'esame del Consiglio dei Ministri venerdì su sostanzialmente un corpus unitario di regole a cui fare riferimento per il TAR e il Consiglio di Stato, vale a dire la giustizia amministrativa, dunque. Per il Corriere della Sera: conti esteri, la lista dei 10.000, l'elenco dei presunti evasori alla Procura di Torino. È una bella storia, interessante. La Francia sta per dare 10.000 evasori italiani, una lista, alla Procura di Torino. Per il Messaggero: sicurezza stradale, legge bloccata. Questa la denuncia. Poi ci sono alcuni quotidiani che puntano sulla minaccia Al-Qaeda, incubo nucleare, come Repubblica, l'allarme di Obama, La Stampa: Al-Qaeda non avrà l'atomica, anche Avvenire, la bomba di Osama, incubo per Obama. Questo l'Avvenire. C'è chi, come l'Unità, giù le mani da Emergency, ancora la vicenda afghana. Insomma, alcune scelte, come il Fatto Quotidiano, su quell'imprenditore che ieri, lo ricordate, abbiamo letto in rassegna stampa, ha dato 10.000 euro per saldare i debiti dei morosi di Adro, e le famiglie che non hanno pagato le mense dei bambini. Razzismo contro i bambini, voto a destra ma dico no. Ecco il manifesto dell'anonimo imprenditore che ha aiutato i bimbi di Adro. Insomma, le scelte sono variegate, anche se nella prima parte di questa rassegna stampa la parola chiave della rassegna stampa è gay. Perché? Intanto perché, sapete, è montata questa polemica per le dichiarazioni del Cardinal Bertone, il numero 2 Vaticano, in un'intervista in Cile. Che cosa ha detto Bertone? Molti sociologi, psichiatri hanno dimostrato che non c'è relazione tra celibato e pedofilia, e invece molti altri hanno dimostrato, me lo hanno detto recentemente, che c'è una relazione tra omosessualità e pedofilia. Ovviamente sono esplose le polemiche, Vaticano e gay, scoppia un caso, per esempio in prima pagina del Messaggero, lo troviamo, nessuno ci apre, ma la notizia ha ampio risalto un po' ovunque. C'è per esempio su Repubblica un commento di Francesco Merlo, molto critico: la confusione della Chiesa è un disagio più che un errore, non è un'analisi più o meno grossolana ma una reazione scomposta, è un danno che la Chiesa non fa agli omosessuali ma a se stessa. Il Cardinal Bertone, che è un uomo di solito prudente e niente meno il numero 2 dello Stato Vaticano, ha detto appunto la frase che vi ho ricordato. Che ci sia un rapporto statistico, scientifico, tra omosessualità e pedofilia è sicuramente una bugia. Detta da un teologo, la bugia è ancora più grave. Il Cardinal Bertone ha infatti un rapporto altissimo con il candore e con l'amore, un'abitudine filosofica con la profondità, è un uomo di Dio. Perciò davvero ci sorprende che sia entrato a piedi uniti su una questione così delicata e complessa. Ma le critiche le trovate un po' ovunque. Gianni Vattimo, per esempio europarlamentare dell'Italia dei Valori, omosessuale, sul Manifesto, fa un articolo molto corrosivo in prima pagina. C'è ovviamente tutta la comunità omosessuale che si è anche ribellata. Viene fatto notare su Repubblica, per esempio, che sull'Osservatore Romano in edicola viene pubblicato il discorso di Bertone in Cile, ma viene omessa la parte dedicata al rapporto tra omosessualità e pedofilia. Insomma, la Chiesa ancora sotto attacco, anche se c'è una difesa, la troviamo sul Corriere della Sera. Intanto una difesa laica del Papa, è Piero Stellino in prima pagina, l'editoriale. Sotto la polemica il Vaticano e i gay si apre un nuovo caso, dunque anche il Corriere tratta questa vicenda ampiamente, lo fa a pagina 2, a pagina 3. Una difesa laica del Papa, Piero Stellino dice sostanzialmente, si sta manifestando in realtà un vistoso paradosso: a essere oggetto degli attacchi più aspri è proprio l'attuale pontefice, che ha il merito indubbio di aver fatto opera di trasparenza all'interno della Chiesa su un fenomeno troppo a lungo sottaciuto e di aver cercato di definire e distinguere gli ambiti dei tribunali civili, riconoscendone le prerogative in tema di persecuzione del reato di pedofilia secondo la legge civile e quelli propri della Chiesa, rivendicando l'autonomia nella condanna dei peccati e nella redenzione dei peccatori secondo il diritto canonico e la propria predicazione. Insomma, per Ostellino questa è la sua difesa laica del Papa. C'è questo paradosso, proprio Ratzinger, che è colui che indubbiamente, questo è indubitabile, con alcuni gesti, per esempio quando si è ricordato anche qualche giorno fa del fatto che ha fatto perseguire il fondatore dei Legionari di Cristo per accuse in passato invece insabbiate, proprio lui che ha portato avanti la linea del rigore ora si trova sotto attacco più degli altri. A questo proposito Armando Torno, a pagina 5 del Corriere della Sera, fa un'intera pagina in cui riepiloga invece quelle che sono le voci pro Ratzinger, cioè pare che si stia diffondendo anche una sorta di manifesti, anche manifesti che possono essere votati, che possono essere sottoscritti, di persone intellettuali, artisti, trasversali in tutto il mondo, che invece difendono l'operato di Papa Benedetto XVI. Tra l'altro, curiosamente, uno degli articoli più di forte difesa di Papa Ratzinger viene dal New York Times, dal trentenne conservatore Ross Douthat, così lo ricorda Armando Torno e lo cita all'inizio del suo articolo, proprio quel New York Times che invece è stato uno dei giornali che più ha attaccato il Papa attuale, dicendo è lui anche che ha insabbiato. Insomma, questo nuovo fronte per le dichiarazioni sugli omosessuali, i pedofili come gli omosessuali, non è proprio così la frase, ma è quello che ha aperto un nuovo fronte di polemica con la Chiesa. Come dicevo, però, la parola chiave di questa prima parte della rassegna stampa è gay, perché se veniamo alla politica italiana ci sono due giornali che decidono di aprire con le dichiarazioni fatte ieri del deputato del PDL vicino a Fini, Italo Bocchino. Allora, il giornale: meglio gay che leghisti. Questo è il titolo, è l'outing dei finiani. Per Bocchino un omosessuale può fare il premier, un uomo del Carroccio no. Quali sono le frasi contestate nell'intervista che Italo Bocchino ha fatto a Klaus Davi? Sì a un premier gay se eletto dagli italiani. Sono contrario a qualsiasi forma di discriminazione. Se un premier omosessuale venisse eletto dal popolo, ha tutto il diritto di governare il paese. E invece, una domanda successiva su un premier leghista, Bocchino ha detto: il premier non può rappresentare solo un'area del paese. Dunque un premier leghista è improbabile per una ragione di limite territoriale che la Lega ha. Non può governare un intero paese chi ne rappresenta solo una parte. Ecco allora che viene riassunto così: meglio gay che leghisti, cioè un premier gay sì, un premier leghista no. Questo è l'attacco molto duro del giornale, con Nicola Porro, il vice direttore, che ricorda: ma come? Si ricorda, non era Fini quello che diceva che un insegnante omosessuale, dichiaratamente omosessuale, non può insegnare? Poi invece ha cambiato idea, ha detto più avanti: sono disposto a discutere sul tema del riconoscimento dei diritti alle coppie di fatto. Qualche anno dopo, fino a non mi permetterei mai di dire che l'omosessuale è un diverso nel 2007. Insomma, si ricorda un po' la parabola di Fini e dei Finiani, ed ecco che infatti Vittorio Feltri, il direttore del giornale, fa che cosa? Fa invece un'intervista sul Riformista. Il Riformista apre così: meglio gay che leghista, per l'appunto, e c'è un'intervista, devo dire, scoppiettante a Vittorio Feltri, a pagina 2. Chi sono i Finiani? Più che dei fighetti sono dei rompipalle. Peraltro Feltri dice: guardate che io sono d'accordo su tante battaglie che fa Fini. Io che sono un vecchio socialista sono d'accordo sulla laicità, al testamento biologico, il voto amministrativo agli extracomunitari che lavorano e pagano le tasse. Quello che Fini non capisce è che il centrodestra ha l'esigenza di governare e di fare delle cose, mentre si fa la politica dei dispetti. Se Berlusconi dice c'è il sole, l'altro risponde no, piove. Ma insomma, che altro va detto su un presidente della Camera che la vigilia delle elezioni dice che il PDL non gli piace? Risultato: per Feltri la gente, invece di percepire un governo che decide, ha l'idea che c'è un gallo potente, Berlusconi, che vuol fare le cose, e un gallo spennacchiato, Fini, che lo impedisce. Non è un caso che la Lega sia cresciuta. Ed ecco qui, a proposito di Lega, Bocchino dice che un premier potrebbe essere gay ma non leghista. Sentite che risponde Feltri: una vera idiozia, per usare un termine scientifico. Dovrei commentare? Ma questi sarebbero i fighetti? Ai miei tempi si chiamavano cretini. Dov'è cresciuto questo? In oratorio? Voglio dire, nessuno ha detto nulla sui gay se non in qualche oratorio. Non capisco perché Bocchino fa una sorta di classifica del negativo. Prima c'è il gay, poi il leghista, che sarebbe sinonimo di rozzezza. Questa sarebbe la destra illuminata. Ma che vadano all'asilo. Insomma, Feltri continua, questa volta in un'intervista Riformista, la sua battaglia contro Fini, una certa destra non collaborativa. In tutto questo, il dialogo sulle riforme, fortunatamente, risparmiandoci un po' di noia, è per un giorno un po' rallentato, anche se c'è La Stampa. La Stampa finalmente dice qualcosa di concreto su quello che sarebbe allo studio delle riforme, tra semipresidenzialismi, qui in salsa di qui, in salsa francese, tedesca, inglese, non si capisce più niente. Ecco, almeno a pagina 9, l'idea di Berlusconi, la consulta eletta solo dalle Camere. Magari verrà smentita nel giro di un'ora. Però, secondo Francesco Grignetti sulla Stampa, almeno è un'ipotesi concreta su cui ragionare, la Corte Costituzionale, quella che Berlusconi spesso ha attaccato dicendo è formata anche da giudici di sinistra, eletti per un terzo dal Presidente della Repubblica, che spesso è sempre stato di estrazione di sinistra. Berlusconi starebbe preparando un'idea di riforma da Corte Costituzionale federale modello tedesco. Perché? Perché lì tutti i 16 membri sono scelti dal Parlamento. La tentazione del Premier, riforma della Corte in Germania, i 16 membri sono tutti scelti dal Parlamento. Come? In maniera bipartisan, devono essere votati con 2/3 di maggioranza, dunque non ci possono essere colpi di maggioranza. Secondo La Stampa, Berlusconi avrebbe l'ipotesi questo: una Corte Costituzionale votata interamente dal Parlamento e non come attualmente, un terzo dal Parlamento, un terzo dal Capo dello Stato, un terzo dalle supreme magistrature, cioè Cassazione e Consiglio di Stato. E il PD? Non vi posso risparmiare la domanda di oggi. Oggi Jena ancora imprescindibile. Io ve l'avevo detto che la lettera di Bersani al Messaggero 2 giorni fa non l'avevo capita tanto. Dobbiamo in primo luogo darci un'agenda che chiarisca il nostro sistema di idee, che è alle fondamenta della nostra identità. Qualsiasi cosa volesse dire, siamo d'accordo con Bersani. Questo è Jena. Allora, è durata un giorno l'ipotesi di Prodi, il partito federale. Oggi gelo sull'ipotesi di Prodi. No di Bersani al partito nel nord, serve un PD in tutto il paese. Prodi stizzito, contattato dal Corriere della Sera, non commenta, dice: quello che dovevo dire ho detto, basta. Parla invece Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, e la sua intervista è la più dura, è l'intervista sul PD del giorno, a Repubblica, Ettore Boffano. Sentite Cacciari. Guardi, io comincio da Prodi, uno che dovrebbe vergognarsi di parlare adesso, e con lui tutti, D'Alema, Rutelli, Fassino. Come si fa a venire adesso a proporre il Partito Federalista dopo che per 15 anni non hanno voluto ascoltare? Lei è arrabbiato, professore, arrabbiato. Io userei il turpiloquio, ma so già che lei non lo riporterebbe. Non ci sarebbe neppure da discutere un minuto. Se non vogliono far morire il PD in pochi mesi, serve subito il PD del Nord, con Sergio Chiamparino segretario. Bersani deve capirlo subito, ma forse è già troppo tardi. Perché dopo la farsa di Mantova ho paura che sia già troppo tardi. E poi Cacciari dice: a ogni tracollo ci riunivamo negli anni, rilanciavamo l'idea, la chiamavamo Ulivo, nuovo partito, persino PD del Nord, la offrivamo ai vertici nazionali, ma dopo non accadeva nulla. E ancora, dice Cacciari, insomma, si vergognino tutti, a cominciare ancora da Prodi, che deve vergognarsi e poi fare un'autocritica precisa. Insomma, allarmi inascoltati per 15 anni, i capi di Roma si vergognino. Questa è l'intervista di Bersani. In primo piano. Vogliono suicidarsi, si mettano in analisi. Tullio Camilleri parla. Scusate, perché ho detto Tullio Camilleri già due volte. Tullio Camilleri è un responsabile della comunicazione che non c'entra nulla. Andrea Camilleri, grande scrittore. Andrea Camilleri parla del PD. Il partito tiene l'anima coi denti, è più di là che di qua. Lo fa in un'intervista al Fatto Quotidiano a Silvia Truzzi. Il clou dell'intervista è questa risposta. Tenetevi forte. Ecco il lessico del PD, sempre da una frase di Bersani al Messaggero, abbastanza infelice questa lettera di Bersani al Messaggero. È possibile rafforzare sia gli elementi di pluralità che i presidi dell'unità. Ma che vuol dire? Chiede Silvia Truzzi. E sentite Camilleri, è un segno, sono bloccati nel tempo. Cielo duro è un modo di comunicare, volgare, populista, ma se la gente vuole questo, non puoi parlare con i presidi dell'unità. Ecco, questo è il clou della lettura di Camilleri del perché il PD è ancorato al passato. Intanto la Lega, scopriamo da Repubblica e da Libero, che vuole le spie in Friuli al pronto soccorso. Mozione del Carroccio, una squadra di impiegati di guardia negli ospedali per denunciare i clandestini. Torna questa vicenda in Friuli. Mettiamo gli infermieri, mettiamo delle spie. Insomma, in modo che arriva il clandestino, lo curiamo, ma lo denunciamo. L'intervista del giorno però di politica, lasciatemela dire, dai, è a Vladimir Luxuria. Fabrizio Roncone la intervista su Il Corriere, pagina 11, Luxuria e il cambio di sesso. È un momento pesante. Lei vuol sapere se sono stata a Casablanca, giusto? Sì, sono stata a Casablanca. Però vede, potrei essere andata per prendere un po' di sole e farmi una bella vacanza. Ma non è una vacanza, chiede Roncone. Lei è molto delicato coi giri di parole. Però, come dire, non devo farmi condizionare dalle interviste in questo momento. Lo ha detto anche chi mi segue nel percorso psicologico che sto per fare. È che mi ha scoperto Mara Keplero, la mia amica transessuale, perché è arrivata a casa mia e ha trovato il cedolino del biglietto aereo Casablanca-Roma della Royal Air Maroc sul tavolo. A quel punto tutto è rimasto abbastanza chiaro. Insomma, Vladimir Luxuria di fronte al cambio del sesso. Ma lei gliel'ha detto a Bertinotti? Scusi, che c'entra Bertinotti? Ma come, dice Roncone, lei è stata eletta in Fondazione Comunista, Bertinotti era il suo capo. Guardi, vuol sapere cosa pensa di questa mia decisione, Fausto? Io credo che le persone intelligenti ti giudichino da un organo che non si può asportare, sarebbe il cervello. Insomma, e poi cambierò nome, non più Vladimir, ma Vladi. Non trova che sia molto più chic? Dice Vladi o Vladimir, ex Vladimir, neo Vladi Luxuria. E poi quel Vladimir era troppo, ma davvero troppo bolscevico. Vladimir o Vladi, ora andrà chiamata Luxuria, al cambio del sesso. Trovate molto ancora di Afghanistan, ovviamente, se volete, qua e là. Anche se voglio andare a notizie economiche, l'apertura del Corriere della Sera, come detto, è conti esteri, la lista dei 10.000. Nel mirino ci sono 10.000 conti in Svizzera. Attenzione, perché è una notizia importante, 10.000 sospetti evasori fiscali. La Procura della Repubblica di Torino sta per mettere le mani sull'elenco di circa 10.000 italiani titolari di un conto corrente nella filiale ginevrina della banca britannica HSBC. che è stato messo a disposizione dai magistrati francesi da chi? Da un ex dipendente dell'istituto, uno che ha fatto, come dire, la spia dall'interno, tra l'altro è un italo francese che sostanzialmente ha una storia quasi da 007, Hervé Falciani, che è fuggito con una serie di conti e li ha offerti praticamente a metà servizi segreti o procure di mezza Europa. Alla fine ha trovato un procuratore a Nizza che ha detto sì sì, me li dia questo elenco di evasori che poi informerò tutte le varie procure dei vari paesi. Ebbene, la procura di Torino ha chiesto con una rogatoria internazionale di avere l'elenco di questi 10.000 presunti evasori italiani e questa lista dovrebbe arrivare e starebbe per arrivare a disposizione della procura di Torino. Avete un conto nella banca nella filiale ginevrina della banca britannica HSBC? In bocca al lupo. Tanto che il Sole 24 Ore proprio mette in prima pagina: accertare la ricchezza fa bene al fisco, la lotta all'evasione. Un interessante commento di Angelo Provasoli e Guido Tabellini proprio sull'evasione fiscale, che è per Provasoli e Tabellini il problema da affrontare in primo piano, perché il valore aggiunto non dichiarato varia tra il 16 e il 18% del PIL, una perdita complessiva di gettito nel 2007 stimata di oltre 100 miliardi di euro. Questa cifra è sempre importante quando si parla di evasione fiscale: 100 miliardi di euro l'anno, una stima di ciò che ci viene fregato dagli evasori. Non vi è una ragione tecnica, scrivono, che spieghi perché l'evasione fiscale sia così diffusa nel nostro paese, tanto da essere un fenomeno di massa. La ragione è politica. Se davvero si volesse, l'evasione fiscale potrebbe essere sostanzialmente debellata con investimenti non elevati. E poi ecco l'elenco delle proposte. La prima è proprio quella di studiare sul patrimonio, cioè gli accertamenti sul patrimonio, perché scrivono Provasoli e Tabellini: poiché la variazione del patrimonio è uguale al reddito meno la spesa per consumi, l'accertamento dei patrimoni può diventare lo strumento cruciale per segnalare la presenza di redditi evasi. Basterebbe confrontare la variazione annuale del patrimonio con i redditi dichiarati. Poi va avanti l'articolo, è molto interessante, sono proposte concrete, il fisco e i patrimoni da accertare, che vi invito a leggere. Oh, siamo credo in conclusione, no? Guardo Peter, mi facendo di sì. L'ultima segnalazione, sempre economica, è da Repubblica. È la storia che Cinzia Sasso racconta dalla provincia di Padova dell'azienda metalmeccanica ZF, dove si è studiato un modello che stanno cercando di studiare sostanzialmente in tutta Europa. La fabbrica senza orari, dove l'operaio sceglie quanto lavorare. Non solo quanto, ma anche dove. Cioè, scusate, dove, ma in che fasce orarie? Non più dalle 8 alle 17, ma gli operai dicono: io ho queste esigenze, fanno una sorta di orario a menù, c'è un sistema che incrocia tutte le disponibilità con ovviamente anche le necessità produttive dell'azienda e si fa l'orario di ognuno. Chi lavora, non so, dalle 10 alle 19, chi lavora un po' meno, chi lavora un po' di più, un modello in cui gli operai scelgono quanto lavorare e in che fasce orarie e che sarebbe studiato in tutta Europa, più felici e più produttivi. Allora, noi invece nel nostro sondaggio parleremo di scuola, tutti in divisa uguale gli studenti. Che ne pensate? Una scelta giusta? Sono le 8 e 18 minuti, ben rientrati, ben ritrovati in diretta. È il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Troviamo oggi Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno a te, buongiorno a te Alessandro e dagli ascoltatori. Oggi parleremo a Salvadanaio di incentivi per l'acquisto di elettrodomestici che scattano domani, mentre Alessandro a Soldi e dintorni questa mattina parliamo di bottiglie, in particolare di come riciclare le bottiglie di plastica e avere subito uno sconto. Tu Alessandro probabilmente utilizzi a casa delle bottiglie di plastica. Certo. Ti farebbe comodo avere subito un bonus in euro da spendere? Sì, ma sarei un disastro, io non sarei capace di gestire queste cose. Prendo e butto, ecco, nella plastica. Ecco, invece insomma, è importante capire come riciclare, ma anche come avere subito indietro qualche soldino. Ne parliamo, per parlarne abbiamo con noi un ospite che insieme a una società, con la società Tredingenia, il dottor Carlo Venturato, direttore commerciale di Tredingenia, al quale diamo il buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie. Allora, voi di Tredingenia, che è una società di Bolzano che è specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti per la raccolta differenziata di rifiuti, quindi cassonetti differenziati, imballatori, insieme a un pool di ingegneri esperti in sistemi informatici applicabili alla raccolta differenziata di rifiuti, che sono gli ingegneri della società APT Engineering and Consulting, sempre di Bolzano, avete dato vita a EcoBank, è così? Certo, certo. Ci racconta di cosa si tratta? Sì, abbiamo dato vita a questo progetto per dare una risposta alla raccolta differenziata di qualità, innanzitutto della plastica, perché la plastica è uno dei rifiuti che ci troviamo più spesso ad avere a che fare, quindi abbiamo sviluppato questa postazione automatica che riconosce gli imballi in plastica, li compatta e li stocca in grandi quantità. In pratica è un apparecchio di dimensioni più o meno uguali a una cabina telefonica. Ne esistono già 3 esemplari, se non sbaglio, in Piemonte. Sì, sono partiti dei progetti pilota in Piemonte e attualmente stiamo sviluppando la rete di installazioni, perché abbiamo una grande quantità di richiesta da parte delle amministrazioni pubbliche, perché questo è un sistema che dà una grande quantità di raccolta di questa tipologia di imballi, di questa tipologia di rifiuto, fornendo qualità, perché la macchina seleziona e divide per qualità, quindi PET trasparente, PET colorato, raccoglie anche l'alluminio e l'acciaio e diventa un sistema con un'elevata sostenibilità, sia ambientale che economica, per il sistema di raccolta. Quindi i cittadini, per il momento, dei comuni di Venaria Reale, Valenza, Alessandria in Piemonte, possono portare le loro bottiglie o lattine, infilarle nella macchina, la macchina riconosce il materiale e dà indietro un bonus in euro da spendere in supermercati, esercizi commerciali, ma anche servizi comunali convenzionati. L'ho spiegato bene? Esattamente, è proprio questo il funzionamento della macchina. La macchina, una volta che l'utente conferisce l'imballo, eroga immediatamente un bonus che abbiamo quantificato attualmente in 2 centesimi a imballo. Le faccio solo qualche premessa e qualche numero. La macchina attualmente raccoglie all'incirca dalle 5.000 alle 7.000 bottiglie al giorno, sono circa 12 bottiglie al minuto. Quindi è una grande quantità, eroga bonus circa di 75 euro al giorno, mensilmente sono attorno ai 1.600-1.700 euro per un totale di 20.000 euro all'anno, quindi è una grande quantità di bottiglie, faccia conto che raccoglie sulle 3 tonnellate di plastica al mese, sono 40 tonnellate all'anno. Tutto questo è partito circa 10 mesi fa? Sì. E sta avendo successo, nel senso che la cittadinanza, mi sembra di capire, che accoglie favorevolmente, va praticamente a questa macchina e porta bottiglie e quant'altro. Certo, la cittadinanza non può più farne a meno, anche perché EcoBank funziona come un vero e proprio eco shop, cioè è un negozio, si apre alla mattina alle 9 e chiude alla sera alle 9, poi naturalmente gli orari sono gestibili in automatico, però è un vero e proprio negozio in cui la gente conferisce gli imballi in grandi quantità naturalmente e riceve il bonus direttamente dalla macchina, è spendibile nei centri commerciali convenzionati o negli esercizi commerciali convenzionati, quindi è la filiera, abbiamo dato una risposta a 360 gradi a quel che è la gestione della raccolta, è contento il gestore dei rifiuti perché naturalmente l'utente porta in un unico punto un rifiuto senza andarlo a prendere a casa se attiva un sistema di raccolta porta a porta. È contento l'utente perché riceve un bonus da questa azione, è contento poi l'esercizio commerciale perché erogando il bonus o scaricando il bonus può in qualche modo fidelizzare il cliente. Quindi diamo un po' di dati allora su questo consumo di bottiglie di plastica. Ogni anno, secondo i dati che ci sono stati dati, scusate il gioco di parole, da Legambiente Federutility, si consumano 12 miliardi di litri di acqua imbottigliata in plastica, il che comporta per la sola produzione delle bottiglie l'utilizzo di 350.000 tonnellate di PET, con un consumo di 665.000 tonnellate di petrolio e l'emissione di gas serra di circa 910.000 tonnellate di CO2 equivalente. Insomma, quindi riciclare questo materiale è senz'altro positivo. Però perché per i comuni questo tipo di riciclo è vantaggioso rispetto alla raccolta differenziata porta a porta? Ma come le spiegavo appunto, è il sistema, è il Bring System, nel Trentino lo chiamiamo così dalla derivazione tedesca, nel senso che è l'utente che ci porta il rifiuto, la bottiglia, gli imballi in plastica che poi EcoBank riceve. Quindi non è più un mezzo del comune o del gestore che effettua il servizio che va a prendere in casa la plastica. Ma è l'utente che ce la porta, naturalmente incentivato dal bonus che eroghiamo con EcoBank. È lo stesso momento, se EcoBank fosse sistemato in un punto strategico qual è l'uscita o l'entrata del centro commerciale, l'utente potrebbe fare un unico viaggio, quindi portare le bottiglie in EcoBank, utilizzare poi il bonus all'interno del centro commerciale per fare la spesa. Ecco che quindi il sistema diventa un sistema sostenibile, sia da un punto di vista ambientale che anche economico. Ora pensate di allargare l'utilizzo di questi apparecchi anche ad altre città? Sì, stiamo già attuando dei contatti, sono già in corso trattative interessanti con altre regioni, città, anche singoli comuni che hanno necessità di dare una risposta al cittadino per una raccolta di qualità, specialmente di qualità anche in quantità del rifiuto, e decidono appunto di utilizzare EcoBank come sistema e come mezzo. Anche c'è un progetto anche su Milano, no? Certo, collegato con l'Università Bocconi. Guardi, proprio in questi giorni ci hanno dato conferma ieri della data, il 3 di maggio avremo la premiazione di EcoBank all'interno di una selezione di progetti su 130. È stata praticamente selezionato EcoBank come progetto ideale per la pubblica amministrazione. Su Milano c'è un progetto di sviluppare all'interno di un quartiere l'installazione di più macchine per dare una risposta di qualità anche alla raccolta a Milano. Differenziata. Grazie a Carlo Venturato, direttore commerciale di 3D Ingenia. Vedremo quindi se sarà applicato anche alle grandi città come Milano. Alessandro. Eccoci qua, grazie Valentina, ovviamente l'appuntamento alle 12 con Salvadanaio e poi ovviamente ci troviamo, credo, anche domani? Sì. Bene, ci troviamo anche domani. Deborah Rosciani l'abbiamo rottamata come una bottiglia di plastica. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. C'è stato un terremoto in Cina, nella regione del Xinjiang, al confine con il Tibet. Secondo la TV pubblica sono almeno 300 i morti, ma potrebbe aumentare, ci sono diverse migliaia di feriti. Sarebbe una catastrofe planetaria se l'arma atomica finisse in mano ad Al-Qaeda, è quanto ha detto il presidente americano Obama, che per questo ha invitato ad azioni concrete. Oggi il ministro degli esteri Frattini riferisce in Parlamento sull'arresto dei 3 operatori di emergency in Afghanistan. Dei 3 al momento non si hanno notizie, sono stati trasferiti da Lashkargah in una località che le autorità afghane non hanno rivelato. Infine per il calcio, l'Inter è la prima finalista di Coppa Italia, ha vinto a Firenze ieri 1-0, l'altra finalista uscirà dalla sfida Udinese-Roma tra una settimana. Intanto per motivi di sicurezza il derby Lazio-Roma domenica prossima è stato anticipato alle 18:30 su ordine del prefetto. E allora alle 8:34 minuti parliamo di scuola, di scuole, di sempre più scuole che adottano in Italia la divisa per i propri studenti. Siete d'accordo oppure no? È il nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Scrive oggi Michele Serra nella sua abituale amaca di Repubblica. Ignoro quali siano le idee politiche di chi nel Trevigiano ha proposto una felpa scolastica uguale per tutti gli studenti per contrastare la dipendenza dalle GRIF e come simbolo di democrazia e di uguaglianza. Ma sono d'accordo. Vengo da una generazione che si ribellò alle divise, al formalismo, alle regole imposte dall'alto. Non potevamo o non sapevamo immaginare che le regole imposte dal basso potessero essere perfino peggiori. L'idea di reintrodurre le divise scolastiche in questo clima, in quest'epoca, ha dunque qualcosa di nuovamente sovversivo. L'infrazione di regole, quelle del conformismo modaiolo, che sono più pervasive, più subdole di qualunque regolamento scolastico. Insomma, la divisa scolastica diventa una forma di anticonformismo attivo. Questo Michele Serra, ieri Repubblica ha riportato alla luce la storia di una scuola che non è una novità in realtà, l'esperimento è partito da qualche mese in provincia di Treviso. Ne saluto tra l'altro il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Godega e San Fior, Treviso appunto, Stefano Daros, buongiorno. Buongiorno a voi. Da voi si va, allora, i maschietti come? Che colore hanno la divisa? Hanno una felpa azzurra e una polo grigia, le ragazze una polo bianca e una felpa blu. E come mai? Ecco, cos'è una scelta egualitaria? Così, diciamo, il figlio dell'imprenditore e il figlio dell'operaio vestono allo stesso modo? Sì, ho letto anche così in un comunicato. Sì, nel senso che poi nella stampa è emersa questa nota. In realtà la cosa è molto semplice, ma nella sua semplicità molto importante e significativa. Questa è stata una proposta avanzata da un gruppo di genitori che ha trovato il consenso. Ovviamente io ho dato ascolto, ne abbiamo parlato tra collaboratori e staff, abbiamo portato la proposta in consiglio d'istituto, c'è stata un'ampia adesione, ci siamo presi alcuni momenti di riflessione, abbiamo capito che la cosa era sentita e c'era solo qualche piccola perplessità da parte di un gruppo limitato di genitori. Diciamo che alcuni genitori lamentavano il fatto che soprattutto le ragazzine a 13-14 anni facevano il confronto a casa sul jeans firmato, sulla maglietta di un certo tipo. Quella ce l'ha, quell'altra sì, no. Sì. E quindi è una cosa partita dai genitori. L'abbiamo portata in consiglio d'istituto che, come si sa, ha una ampia componente di genitori e quindi una proposta accettata. Ma voglio dire, Che con un gioco di parole i ragazzi vengono con la divisa in seguito a una proposta condivisa. Una proposta condivisa, ma che vuol dire? Cioè, è un modo di far finire appunto anche questa competizione, così non ci sono diversità. Si sa come sono gli adolescenti, no? Vanno a casa poi dai genitori, ma come, la mia compagna, il mio compagno c'ha il vestito griffato, allora lo voglio anch'io. Questo secondo voi è un messaggio più educativo? Ma essenzialmente educativo, nel senso che la scuola ha come principale mandato quello di fare educazione, formazione e istruzione, per cui di fronte a dei modelli diseducativi che vengono proposti dalla TV, vediamo veline, vediamo ballette sempre più scollate con pochi centimetri quadrati di gonna o di pantalone, chiaro che c'è un'emulazione. E quindi non vale solo per le femmine, sì, un po' di tutto. Però c'è il fenomeno delle veline più femminile. Sì, questo sì. Diciamo che, ma non solo da noi, la cosa è abbastanza diffusa, credo, in tutta Italia. Pantaloni particolarmente con vita bassa, oppure scollature ampie, obelico in vista, quindi è una questione anche di decoro. Un po' più da di noi ordine essere decoro. Pacchettoni, ma se il ruolo della scuola è quello anche di educare. Poi, a proposito della diversità, sì, non è certo un capo d'abbigliamento che annulla le diversità, ognuno di noi è diverso e ripetibile. È importante però che pur di mantenere la diversità a tutti i costi, poi vengano accentuate le differenze. Certo. E le differenze poi sono effimere sul marchio, sull'apparire, più che sulla sostanza. Questo sì, professore. Allora, l'ascolta, tra l'altro, voglio salutare il professor Carlo Lottieri, che ritroviamo con piacere. Professore, buongiorno. Buongiorno. Lottieri insegna dottrina dello Stato e teoria generale del diritto all'Università di Siena. Ci ascolta anche un ospite da Napoli, tra poco la saluto, andrò anche da lei. Però il professor Lottieri, lei è stato critico anche in un intervento sul giornale di recente proprio per parlare di questo egualitarismo, se si vuole, forzato, cioè a dire le diversità esistono e non sono un male, voglio dire, è forse sbagliato allora cercare di annullarle così, perché sarebbe sbagliato? Guarda, io non critico ovviamente la scelta di una scuola di adottare una divisa, o forse meglio sarebbe dire un uniforme, dato che è un meccanismo appunto che mira a uniformare almeno l'aspetto esterno. È una cosa che può essere giustificata in vari modi, una cosa molto tradizionale nel mondo anglosassone ad esempio. Quello che però trovo molto discutibile è la giustificazione che spesso viene data, le parole ad esempio che lei citava prima, dell'opinionista di Repubblica, no? Di Michele Serra, ad esempio. E tutto quindi il discorso è stato sviluppato attorno a questo. Non solo perché sul piano pratico ovviamente queste differenze, perfino come dire nel vestire, non sono annullabili, lo zaino, le scarpe per esempio, no? I ragazzi sono molto sensibili a tutte queste cose, e poi perché in realtà un vero annullamento sul piano pratico implicherebbe una società maoista, cioè voglio dire davvero essere vestiti in ogni momento della propria vita in maniera identica, ma soprattutto perché se la scuola, come è stato giustamente detto, ha questo compito fondamentalmente educativo, deve introdurre la realtà e non negarla. E la realtà è fatta appunto di differenze, è fatta di veline, di ossessione modaiole e così via. E quindi, voglio dire, le differenze in larga misura dipendono anche dalla storia, con tutti i suoi aspetti positivi e negativi, no? Voglio dire, spesso cause fortuite, altre volte no, frutto di scelte buone e cattive. In altri termini, se il figlio di un operaio senegalese che lavora in Veneto non può permettersi le scarpe firmate, ci sono dei motivi storici ben precisi che, di cui si può parlare, che invece... Cioè dice, questo non è necessariamente un male, è volerlo magari conformare in un uniforme, che è questo che è sbagliato, perché non educa a capire che invece nella società ci sono, piaccia o non piaccia, delle differenze con cui fare i conti anche nella vita. Esattamente, noi cresciamo anche quando, come dire, non solo sul piano psicologico riusciamo a accettare che c'è qualcuno che è più intelligente di noi, più fortunato di noi, più ricco di noi e così via, ma anche quando, come dire, tematizziamo questo, lo comprendiamo, ne facciamo, come dire, un elemento di maturazione. Appunto. La sensazione che io invece è che larga parte della nostra società, soprattutto appunto quella che negava ogni tipo di regola 30-40 anni fa, come appunto ricordava Michele Serra, sì. Ora le vuole... Oggi rifiuto ogni limite, no? L'egualitarismo che si propone è quello di chi, voglio dire, vorrebbe fingere, come dire, che le differenze non ci sono, ma soprattutto i limiti non ci sono. In fondo, quando noi troviamo qualcuno che è più fortunato e più ricco di noi, avvertiamo che non siamo il centro del mondo e che non siamo Dio. E questo è già, come un modo per imparare, avere per contatto imparare, con la crescere. Realtà. Allora, io voglio andare a Napoli. Giovanna Esposito, buongiorno. Buongiorno Esposito, preside da 12 anni la scuola media statale Tito Livio a Napoli. Sì, voi, sì, una scuola media. Voi lo fate da quanto la divisa? Da 12 anni, da quando ci sono io. Oh, sì. Poi si dice a Napoli un esempio di scuola e di ordine. Sì, ho ascoltato quanto hanno detto il preside e il suo collega adesso, ma io ritengo che la scuola sia una cosa seria, quindi non c'entrano né il fattore politico né tutto quanto è stato detto ultimamente, ma ritengo che sia un fatto relativo alla compostezza, all'ordine, all'educazione, ad una certa disciplina. Quindi venire a scuola con la pancia da fuori, con l'ombelico da fuori, con i pantaloni bassi, no, noi non siamo d'accordo. Io ho avuto questa idea, li ripeto, da 12 anni. E come va? E col consenso dei genitori, del collegio dei docenti, del consiglio d'istituto, siamo tutti felici, anche perché questi ragazzi portano questa divisa a volte anche fuori dall'orario scolastico. Io li incontro per strada di pomeriggio e portano questa bella divisa, che poi è una felpa blu durante l'inverno e una maglietta bianca che portano durante l'estate. Ma non c'è qualcuno, professoressa, che si lamenta, dice le griff, insomma, così? No, c'entra proprio tutto questo, guardi, perché vedere i ragazzi ordinati, con un abbigliamento corretto e adatto alle mattinate scolastiche, penso che sia un fatto positivo. E questo per un insegnante, ma non sai, c'entra, il giovane... Non c'entra né il fattore politico né altri discorsi. No, ma questo sì, ma questo dalla parte dell'insegnante, ma il ragazzo sarà un po' ribelle, vorrà magari ogni tanto... No, guardi, la portano, glielo ho detto, la portano con piacere, anche perché... Veda, noi siamo certificati, noi abbiamo il certificato di qualità da 8 anni e sulla felpa dove c'è disegnata l'effigie storica di Tito Livio, perché mi sembra giusto che i ragazzi sappiano anche, andando alla Tito Livio, chi era Tito Livio, certo. Quindi l'effigie storica dove c'è poi il nome della scuola, c'è scritto Istituto Certificato per la Qualità, quindi è anche un segno di appartenenza. Vabbè, un percorso insomma che avete... Poi quando escono vanno a fare visite guidate, viaggi di istruzione, sono bellissimi perché li ammirano tutti, tutti ci fanno i complimenti. Beh, proprio... insomma, una storia anche affermata negli anni, ecco, questa è la cosa importante. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? La divisa per andare a scuola o l'uniforme per andare a scuola, che ne pensate? Siete d'accordo? 800 24 00 24 per intervenire. Sentiamo Marco da Como, buongiorno. Buongiorno, che buongiorno, dice? Io totalmente d'accordo, ho 49 anni, sono totalmente d'accordo perché invito tutti quelli che hanno la mia età, quelli della mia generazione, a cercare di ricordare se fra i loro compagni di classe, dietro quella divisa, intravedevano l'industriale, intravedevano il figlio dello stracivendolo, come è successo a me. E questo... Io queste cose le ho capite 5 anni dopo di chi era quella persona dietro. E questo secondo lei è un bene, cioè annullare? Perché il professor Lottieri sta cercando di spiegarci che invece educare al fatto che ci sia il figlio dell'industriale, dell'operaio, del dipendente della pubblica amministrazione, che ci siano i vari ceti sociali, può essere un bene, cioè perché il mondo è fatto così, non è necessariamente un male, voglio dire. Ma io sono d'accordo con la preside di Napoli, assolutamente, e le posso dire che sono figlio di un insegnante molto rigido, direi tinto di nero quasi. Io sono, per definizione, ero uno studente un po' ribelle e quindi tinto di rosso, adesso sono un padre di 3 bambini, tinto di religione un po', ecco, quindi se posso fare una battuta, ecco, è veramente bipartisan questa cosa. Va bene, sì, ma no, ma la politica non c'entra. Grazie Marco, voglio andare a Patrizia da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Anch'io sono d'accordissimo sull'uso della divisa, che è un ripristino addirittura sacrosanto, secondo me, perché tutela i ragazzini in una maniera estrema. Io ho 2 figli ormai adulti, perché i miei figli hanno 25 anni, uno e 23 anni l'altro, e hanno seguito in tempi ancora non sospetti, perché ormai sono passati 15 anni, scuole con divisa rigidissima fra l'altro, e questo li ha aiutati tantissimo. A differenza di quanto dice ha detto il professore, il vedere qualcuno che è più ricco, a mio giudizio, non serve a formare un ragazzo, al limite serve vedere che c'è qualcuno che è più in gamba, più intelligente e che emerge, ma non per motivi che non dipendono neanche da lui, perché l'essere ricco non è un merito di un ragazzo, secondo me è il merito di un genitore. Va bene, allora professor Lottieri, qui si impone una sua replica, lei è in minoranza. No, ma non è che abbia, a parte che sono abituato a essere minoranza, ma non è problema di replica, anche perché... Mi rifaccio la mia premessa, io non ho nulla contro la divisa in quanto tale, lo ripeto, tra l'altro la lettura che dava la preside del Tito Livio di Napoli è molto interessante, è proprio un po' anglosassone, mi dicevo, no? Sì, sì. Non è proprio l'uniforme, ma invece la divisa, le metteva in evidenza come in qualche modo anche un simbolo di eccellenza, e quindi in qualche modo era un modo in senso opposto, come dire, per segnalare che questa scuola che è certificata, che è una scuola di qualità, e così. Quindi vede, e anche tutte le giustificazioni date in merito, non so, alla decenza dei ragazzi, l'ombelico esposto o meno e così via, rinviano ad altre cose. Quindi il problema non è tanto, come dire, il fatto che una scuola adotti anche per senso di identità, che penso sia una cosa molto interessante, una certa divisa oppure no, ma la logica che c'è dietro. Quindi io non ho nulla, ripeto, contro la divisa in quanto tale, mi fa invece così un po' impressione negativa la giustificazione che è stata data, come ha fatto Serra, come ha fatto anche il ministro peraltro, sì, la quale ha giustificato la sua idea di uniforme proprio a partire dalla negare l'evidenza del... Cioè lei ha detto una frase, e io estrapolo dal suo intervento recente appunto sul giornale, dice: negare che ci siano le differenze significa imbrogliare i ragazzi, illuderli che tutto è sempre possibile, anzi garantito. Questo è il messaggio di fondo, mi pare di capire, che lei vuole lanciare, cioè... Sì, io... ho vissuto da studente in due condizioni, l'ho ricordato anche nell'articolo. Quando ero bambino nel mio paese ero figlio di una maestra, quindi in quel contesto rurale ero, diciamo, figlio tra virgolette di un'elite, tra virgolette. E poi quando sono andato a studiare alle superiori, invece al contrario, mi sono trovato a appartenere nella scuola in cui ero, chiaramente a chi poteva permettersi di meno, ho anche tante sorelle, una figlia numerosa, eccetera. Ma credo che entrambe le esperienze, cioè sentirsi, come dire, un pochino escluso perché un pochino al di sopra, e un pochino escluso perché un pochino al di sotto, sono state per me formative. Entrambe le esperienze. Formative. Allora, voglio andare a Ferrara, mi pare. Da Elisabetta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io invece mi metto un po' dalla parte del professore, in quanto secondo me adottare la divisa vuol dire un po' prendere una scorciatoia. In che senso? Nel senso che secondo me invece bisognerebbe insegnare ai ragazzi di differenziarsi oltre al modo di vestirsi, mentre adottando la divisa non si fa altro che confermare il luogo comune che l'abbigliamento fa la persona. Mm. Tutto qua. Insomma, l'abito non fa il monaco, lo sappiamo, sì. No? Neanche lo studente. Allora, grazie Elisabetta. Stefano da Ross, voglio tornare da lei siamo partiti, voglio ricordare, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Godega e San Fior, con questa scelta condivisa, come lei ha detto. Sì. Allora, che ne pensa? Insomma, c'è stata qualche rimostranza? Lei adesso mi dirà che no, sono tutti abbastanza d'accordo, hanno accettato, eccetera. Non so, le altre scuole, per esempio, rispetto alle altre scuole, c'è qualche studente che dice, ma perché noi dobbiamo mettere la felpa tutti i giorni questa, mentre guardate lì a fianco nell'altra scuola possono esprimersi liberamente? Sì, questo succede. Io ho sentito un servizio televisivo ieri sera, sono stati mandati in onda un paio di ragazzi che così lamentavano questa costrizione tra virgolette, però noi secondo me sottovalutiamo anche i ragazzi sanno cogliere tutte le differenze e le minime differenze, e non è certo una divisa che le cancella. Però in questo caso la scelta è stata anche, come dire, supportata da motivazioni di appartenenza, questioni di identità, di costituire un gruppo. E in replica alla signora di Ferrara mi viene da dire proprio che proprio perché guardiamo alla persona, lungi da noi omologare, standardizzare, però vogliamo dire, in questo luogo è più importante essere che apparire. E se dobbiamo apparire, è bene anche apparire uniformemente, apparire come una squadra. Mm. Pensiamo ad esempio a una squadra di calcio, una squadra sportiva. Certo. La divisa non uniforma le potenzialità di ciascuno, ma oltre che appunto avere uno scopo così identificativo, visivo, sì, è un simbolo. Pensiamo ai colori della città, pensiamo ai colori che poi vengono assunti dalla tifoseria. Sì, sì, sì, lei dice questa appartenenza, insomma, a un qualcosa di unito. Vediamo se riusciamo a chiudere con un'altra ascoltatrice. Ho tante donne oggi ascoltatrici, immagino anche mamme. Ilaria da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho una figlia di 16 anni. Sì. Sinceramente dico la verità, alle elementari e alle scuole medie è stata in due scuole private dove aveva la divisa, attualmente va al liceo. Sinceramente sono molto d'accordo con invece l'intervento del professore. Sì. Non credo che la sta recuperando, sta recuperando l'abbigliamento sia una motivazione valida, perché in ogni caso la differenza la può fare tutto. Il ragazzo ha la giacca dentro, ha la scarpa, ha l'astuccio diverso, ha lo zaino. Sì. E quindi capire le possibilità e le potenzialità e anche le differenze che riguardano le famiglie sono assolutamente normali. Certo, come diceva sempre il professor Lottieri, si può imporre in qualche modo, dire mettete la divisa, ma poi nessuno può impedire che uno vada in vacanza alle Maldive e uno vada in vacanza a Riccione una volta che siamo a casa. Comunque il dibattito è interessante, chissà, magari ci torneremo. Devo ringraziare tutti gli ospiti, gli ascoltatori, e Sara Spreafico, sempre in redazione, lì onnipresente, con Peter Bescapè in regia. Allora, do la linea a Oscar Giannino e noi ci troviamo domani, bianco o nero, e tra radio24.it. A domani.